quel numero 243364, questo è il numero tuo, porco, froscio, drogato, drogato, coglione, tu e quella grande bagasse mamma tua, quella grande bagasse mamma tua, ti vuole questo rompicoglione, 243364, adesso lo do a tutta la frequenza il numero tuo, capito? Froscio drogato. Oh!